l'ultimo in ordine di tempo è la Croazia, che segue quello che era già venuto in Svezia e Norvegia, forme simili già avviate nei Paesi Bassi e in paesi a noi vicinissimi come la Francia e la Germania. Il dibattito è molto avanti, si aumentano i posti per la riserva, si fanno incentivi anche di tipo economico, poi punteggi per l'università, poi facilità per prendere la patente eccetera, per incentivare i giovani al servizio per ora ancora volontario di leva, ma si aumentano i posti previsti per il servizio effettivo. Se non si raggiunge col volontariato, scatta l'obbligo anche già in Francia e in Germania, stanno prendendo questa stessa decisione. In Italia le dichiarazioni sia del capo di Stato Maggiore sia del Ministro della Difesa dicono che il Paese si deve preparare e quindi stanno iniziando anche in Italia le procedure per tornare al ripristino della leva obbligatoria della NAIA, che era stato solo sospeso, non abrogato nel nostro Paese, e quindi noi lanciamo l'allarme che riguarda tutti i giovani ragazzi e ragazze del nostro paese. Su uomini e donne diciamo che si segue un po' quello che è il modello israeliano. In Israele sì, come si sa, il servizio militare è obbligatorio, 2 anni per le femmine, 3 anni per i maschi, ma fortunatamente il fenomeno dell'obiezione di coscienza e renitenza alla leva in quel paese sta aumentando con grande forza ed è entrato prepotentemente nel dibattito pubblico del paese. L'associazione con cui siamo in contatto diretto, la nostra associazione sorella Mesarvot, che significa no, io non ci sto, io obietto, sta seguendo proprio in questi giorni 200 casi di obiezione di coscienza totale, a cui bisogna aggiungere il fenomeno, anche questo in espansione in Israele, dei cosiddetti obiettori selettivi, cioè ragazzi che svolgono sì il servizio militare ma si rifiutano di partecipare alle operazioni dirette a Gaza. E bisogna che anche in Italia i nostri ragazzi, i nostri giovani prendano coscienza del pericolo, del rischio che corrono, e quindi noi abbiamo come campagna di obiezione alla guerra promossa dal movimento non violento, abbiamo preparato questa dichiarazione preventiva di obiezione di coscienza. In sostanza diciamo: sappiate che noi non ci avrete, noi obiettiamo a questa chiamata alle armi che ormai pervade tutto il paese, al dibattito pubblico. I militari sono prepotentemente dentro nelle scuole e nelle università, il dibattito giornalistico è colto da questo virus di militarizzazione complessiva. Insomma, il grido prepariamoci alla guerra sembra soffiare in modo troppo forte nel nostro paese, quindi bisogna che qualcuno alzi la testa e la voce e dica no, noi ricominciamo dall'obiezione di coscienza. Proprio sulla vostra campagna e su queste dichiarazioni preventive avete diffuso anche i dati, sono più di 7.400 quelle che avete raccolto fino adesso. Sì, già raccolte e già comunicate ufficialmente sia alla Presidenza del Consiglio che alla Presidenza della Repubblica, con una richiesta precisa. Queste dichiarazioni, cioè i giovani che firmano questa dichiarazione preventiva, siano già iscritti nell'albo degli obiettori di coscienza, un istituto che esiste già nel nostro paese, che registra tutti gli obiettori di coscienza che dal 1972 in poi hanno svolto il servizio civile alternativo, volontario o universale, e che in caso di guerra non possono essere richiamati per servizi armati. Noi chiediamo che questo albo registri tutti coloro che già oggi si dichiarano preventivamente obiettori alla guerra.